Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Scintille, la banda Corbari, di e con Laura Pece e Stefano Greco. Regia Laura Pece, musica e canzoni Stefano Greco. Fresca sera di primavera, quel maggio del 1944. Abbiamo poco più di 20 anni. Io, Silvio ed Otello siamo carichi di quella giovinezza che molti hanno perso durante gli anni della guerra. Camminiamo ai piedi dell'Appennino tosco-emiliano. C'è un gran silenzio. Un silenzio colmo di attesa. Appena superata una collina, vediamo il podere del conte Zanetti. Ci troviamo a pochi chilometri da Predappio. Le strade sono piene di miliziani fascisti. Davanti al podere una macchina, una Lancia Augusta nera lucente, e vediamo scendere dall'auto il console della milizia Gustavo Marabini e il conte Zanetti. L'aria è immobile. Facciamo un respiro profondo e ci incamminiamo verso il podere. Il console Marabini si accorge di noi e leggo sul suo volto la soddisfazione per la vittoria della nostra resa. Silvio si avvicina al console. Marabini sorride quando lo riconosce. È lui. È Silvio Corbari. Ottimo Corbari, hai preso la giusta decisione, dice il console con quella voce rauca che si pianta nel petto come una lama che apre un varco alla rabbia. Ma non si cede, non adesso e non ora, che l'accordo è andato in porto. Silvio mi guarda ed io mi calmo. Il duce ora si trova a Rocca delle Caminate. Domani possiamo accompagnarvi da lui e confermerà senza indugio il nostro patto. Il patto? Sì, il patto con i fascisti. Quanta fatica cedere, dire di sì ed incontrarsi con i fautori del cedimento morale che dilaga nel mondo. Parlano a lungo, Silvio e Marabini, fino al tramonto. La decisione è presa. Corbari sarebbe diventato il comandante di una legione delle Brigate Nere. Io ed Otello avremmo ricoperto importanti incarichi. Ed è così che saliamo sulla Lancia Augusta insieme al comandante Marabini per rientrare a Forlì e sancire il patto appena accordato. Lasciamo le colline, lasciamo i nostri compagni. Incredibile! la Primula Rossa Corbari. E finalmente dei nostri, Kilo? Avrebbe mai pensato, ma senti, Silvio, ma posso chiamarti adesso camerata, no? Vedo lo sguardo di Silvio penetrante, severo e fermo sul console. Vabbè, dai. Vabbè, io guarda, un uomo come te, io lo chiamo anche compagno, se si unisce alle nostre schiere. Anzi, facciamo così, guarda Silvio, così siamo contenti tutti e due, da oggi poi ti chiamerò compagno camerata, va bene? In quel momento Silvio si rivolge all'autista, in modo imperativo gli comanda di svoltare a destra per Predappio, per andare a parlare subito con il duce. Io e Otello cerchiamo di restare calmi, di non destare sospetti. Vabbè, autista, fai come dice, vuol dire che incontreremo prima il duce. Dice duce, Silvio! Ormai le tenebre hanno preso il sopravvento. Mancano 6 chilometri a Predappio. Il silenzio è calato come una lama sulla gola all'interno della macchina. Gli sguardi si incrociano. L'autista inaspettatamente ferma l'auto, finge un guasto, prende tempo, le mani tremano. La situazione comincia a prendere una strana piega, una tensione improvvisa e di nuovo silenzio. Silvio mi guarda. Da sotto la camicia gli passo una pistola. Silvio, senza esitazione, punta la pistola alla fronte del console. Ma console! Ma che ci hai creduto davvero? Hai pensato veramente che saremmo potuti passare dalla tua parte e tradire i nostri compagni? Guardami negli occhi, console. Ti ho detto guardami negli occhi! Il frastuono è durato un istante. Quando riapro gli occhi, la prima cosa che metto a fuoco è il vetro purpureo della Lancia Augusta. L'autista è incredulo. Lo lasciamo andare. Ha un solo compito: raccontare cosa sia veramente accaduto. Il mio nome è Iris. Iris Versari. Sono entrata nella banda nel gennaio del 1944. Ho 22 anni e ho deciso di combattere il fascismo. Ho il compito di saccheggiare le banche con i soldi dei tedeschi, quando riusciamo a cacciarli. Tra me e Silvio è nato un sodalizio di amore e di lotta. Viviamo in un presente fatto di solidarietà e sacrifici, cuore in gola e adrenalina. Nessuno dei due si domanda cosa accadrà quando la fine della guerra ci riporterà alla normalità. Il mio mitra è un pezzo unico. È stato sottratto ad un gerarca fascista. È un regalo di Silvio. Ha una canna decorata da incisioni ed un'impugnatura arabesca. Non è un regalo qualsiasi. Avere una buona arma in guerra può salvarti la vita. Se sei una partigiana, può salvarla a molti. Silvio Corbari è la nostra guida. È nato a Faenza, una piccola cittadina sulla via Emilia di Ponente, classe 1923. La sua è una famiglia umile, umile e contadina, che però lo ha fatto studiare. Da sempre Silvio ha mostrato avversione per il regime fascista, esprimendo costantemente la sua contrarietà. Si è sposato nel 42 a 19 anni, ma solo un anno dopo si è trovato davanti ad un famoso fascista, responsabile di atroci pestaggi e punizioni, e non è riuscito a fermarsi, e per fargli capire il male che aveva provocato, ha cercato di fargli ingoiare un ombrello. Lo aveva offeso, nel corpo e nell'orgoglio, quel fascista. Per una volta la sua misera brama di potere aveva vacillato. Silvio non era mai stato così diretto e violento. Gli piaceva prenderli in giro, come la volta dell'ordigno esplosivo. ma era caricato a pasta e fagioli. Dopo l'ombrello, invece, i miliziani vanno a casa sua per arrestarlo e non lo trovano. Corbari è fuggito, ha salutato moglie e figlio e si è nascosto tra le montagne. E sugli Appennini Silvio incontra altri ragazzi giovanissimi come lui, come me. Tutti abbiamo deciso di affrontare la paura e dire basta alla prevaricazione, alle minacce, ai soprusi di un regime razzista che ci ha portati ad un'assurda guerra mondiale. Siamo tutti ribelli, ribelli e incoscienti. Fa parte dei nostri 20 anni, della nostra vita, del nostro senso di responsabilità. Silvio dimostra un talento non solo nello scontro aperto, ma anche per divertirsi e prendersi gioco dei fascisti. E per farlo ricorre ai suoi brillanti travestimenti, che nonostante il pericolo a noi hanno sempre divertito. Ed è per queste sue espressioni che Silvio Corbari divenne una leggenda nei confronti di chi lo conobbe. Ma te lo dico io quello che è successo a Tredozio, certo! Ma Tredozio sai che è un paesino piccolo tra la Toscana e l'Emilia, no? Ma pieno di fascisti però, madonna, pieno di fascisti! Che la banda Corbari per ben tre volte l'ha provati a mandarli via, sai? Ma quelli tornavano sempre e li cazzavano e tornavano, e li cazzavano e tornavano, e li cazzavano che alla fine basta Corbari, secondo me sia l'ottimo runo, sì. Perché ha mandato una bella lettera, sai, che al comandante supremo dei fascisti che si là, sai? E gli ha detto, senti, vediamoci all'osteria che la risolviamo tra di noi. Ma non ti dico cosa è successo, guarda. Ma guarda, non te lo dico cosa è successo. Non ti dico cosa è successo. Ma certo che te lo dica! Ma te lo dico subito! Ma va là! Ma c'era il paese in subuglio, sai? La voce zerata subito, ovviamente. Ma poi guarda i fascisti che erano impassiti, che tutti all'osteria dovevamo andare. Eh sì, perché, ma sai che l'osteria era quella mia, sai? Quella di mamma e papà, che io ero burdalinza, lavoravo dentro. Ma insomma, tutte quante ci siamo radunati lì. E noi piccoletti ci siamo messi attaccati alle finestre così, con gli occhi spalancati, perché volevamo vedere questo Corbari, che tutti ne parlavano. Ma sai che noi non l'avevamo mai visto? Ma i genitori dietro attaccati a noi, alle finestre, che tutti volevano vedere questo incontro, e mentre stavamo lì ad aspettare... Ma a un certo punto ti arriva un fascistone che si piazza davanti la porta, madonna! E sì, ma che era cattivo. Mi ricordo io con quel capello strano, buffo, ma era cattivo, ma di un cattivo che era proprio, madonna, brutto! E sì che era brutto. Ma mi dicono il Corbari, mi dicono il Corbari di qua, il Corbari di là. Ma mica si è fatto vedere il patacca, si è cacato sotto. Ma sai che ti dico? Quando lui si presenta, no? Ma ti dico che cosa succede, lui arriva col suo cappottino che fa così, fa il gradascio, arriva davanti come per dire io sono io, voi non siete a cascia. Mi si presenta davanti perché crede che sono intimorito. Io lo guardo negli occhi, lui crede che io sono tranquillo. E pum! E gli do un ganoscione sul mascialone che lui sta lì così che si sta a riprendere le stelle nella testa e crede che ho finito. Invece io lo prendo per il collo. Lo prendo per il collo e pum! Un ginocchione sui maroni. Allora lui a quel punto vorrà che la morte se lo porta via, che se lo porta via da tutta questa sofferenza. Ma io, ma mica lo faccio morire così, cioè, no? Io lo prendo, gli prendo la testa e me la metto sotto l'ascella, tipo camera gas, no? Lo tiro su e se non è morto nella camera gas, procati! Gli schiaccio quel testone, ma mi dicono che bene, mi dicono... Ma non so ma mica mentre fatto, il fascistone perché? Stava lì a blaterare, che non si capiva niente di quello che diceva. Ma a un certo punto del Corbari nessuna traccia. Ma invece è arrivato, sai, un vecchio, con un maiale legato ad una corda, che è andato dal fascistone e gli ha detto, senta, ma può tenermi per caso un maiale che non me lo fa mica entrare all'osteria, ma faccio subito un gocciatino che vado e torno. Ma mica era vero! Ma ti pare che non ti facevamo entrare il maiale all'osteria con la fame che c'era? Mica lo lasciavi fuori, ma noi abbiamo pensato tutti quanti attaccati alla finestra. Ma questo lo ammassa! Questo lo ammassa! Ma vecchio! Ma secondo te io sono qui fuori all'osteria a fare il parcheggiatore dei maiali della gente? Ma vabbè, va, ma mi trovi bene oggi, va, entra, vai a bere, e fai subito, che io ho un appuntamento con la storia, e la storia non aspetta. Ma mi dicono il Corvari, ma mica si è fatto vedere quel patacca. I fascisti, il giorno dopo, sono andati in giro a dare del codardo a Corvari. Ma dopo qualche giorno, invece, viene diffusa una lettera in mezza Romagna, indirizzata al console della milizia Marabini. Al console Gustavo Marabini. Signor console, con enorme dispiacere noto che confronto con lei la sua bandezza di camicie nere è deludente e a volte anche noioso vista la vostra incapacità. Questo però ci solleva morale, perché più vi conosciamo e più comprendiamo che presto sarete cancellati dalla storia, visto che sei soldato. Sono buoni solo a badare al mio maiale. Ma è morto, come è morto Corvari, è morto Corvari, ma dove l'ha letto, ma voilà. Ma sì, ma sopra scritto sul giornale. Ma velem, quella era la notizia che avevano fatto pubblicare le Brigate Nere di Faenza, sai? Ma tutti quanti ci siamo subito allarmati, disperati, tanto che io, mamma e papà, siamo corsi subito al bar del paese, sai? E sì, per chiedere cosa era successo, e tutti dicevano, ma velè, è stata quella mattata del camion fantasma! Ma mentre eravamo là tutti distrutti e disperati, è arrivato un uomo di tutto punto, sai, vestito benissimo, è entrato nel bar, è andato sotto il quadro di Mussolini, e spettacolare! L'ha buttato a terra e ci ha sputato sopra, e così come è avvenuto se n'è andato. Ma a un certo punto mi sono sentito, papà, sai, che mi ha preso per un braccio e mi ha detto, dai, sei su, andiamo, torniamo a lavorare. Ma perché? Ma perché Corvari è vivo, andiamo! L'inverno del 1943 è lungo, faticoso e freddo per chiunque. Ma tutti siamo riscaldati da una notizia che porta un cambiamento in quella tragica storia presente. Si apre uno spiraglio. Circola la notizia della disfatta tedesca e dei suoi alleati sul fronte orientale, nella sanguinosissima battaglia di Stalingrado. Il fervore si riaccende tra tutti i partigiani in lotta. La nostra opera di boicottaggio riprende con maggior vigore. Gli avvenimenti iniziano a rincorrersi giorno dopo giorno. Solo una cosa è certa: restare in vita e sconfiggere il fascismo. Arriva l'estate. 25 luglio 1943. Mussolini decade da capo del governo. Gli americani sbarcano in Sicilia. I tedeschi e i fascisti, nonostante la lenta ritirata, non vogliono mollare. Arriva l'8 settembre 1943, l'armistizio. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza d'Italia. Il proclama di Badoglio spacca in due l'Italia, tra coloro che vogliono la libertà e chi continua a giurare fedeltà al fascismo, anche tra i soldati. Dopo l'8 settembre cominciano a salire sulle montagne molti altri, anche dalle fila dell'ex esercito italiano. Dopo l'8 settembre noi della banda decidiamo di non aspettare oltre per muoverci contro gli oppressori. Così cominciamo a raccogliere le armi lasciate nelle caserme abbandonate dei soldati allo sbando. Soldati fascisti e tedeschi vengono anche raggirati e lasciati in mutande, come a Rocca San Casciano, un'impresa ricordata da molti come la leggenda del camion fantasma. Una notte, Silvio e altri quattro compagni entrano in azione. Avevamo bisogno di grano e si decide di sottrarlo ad un autocarro della Guardia Nazionale Repubblicana. I miliziani vengono disarmati, spogliati e mandati via. Le divise sono lì, a terra. Un piccolo sorriso inonda il volto di Corvari. Gli altri non capiscono subito, ma ecco che Silvio prende una giacca, la indossa e comincia ad imitare un fascista. Allora i compagni comprendono e, indossate le divise, partono con il camion. Fingendosi miliziani, incominciano ad espugnare le caserme tra Forlì e Faenza, spingendosi oltre l'Appennino e giungendo in Toscana. Quando li vedo tornare, sono sorridenti. Hanno ancora l'adrenalina nelle vene, voglia di accendere un fuoco, mangiare una minestra e ritirarsi per qualche tempo. Per tutti noi, l'amicizia e la solidarietà sono valori fondamentali come l'antifascismo. Comunisti, socialisti, anarchici, repubblicani, credenti, atei, tutti devono avere il principio del rispetto reciproco e aborrire qualunque pratica fascista di dominio e superiorità. È su questo principio che si forma la nostra banda, ma soprattutto il sodalizio tra Silvio e un altro fondamentale elemento, Adriano Casadei. Nome di battaglia, Otello. Otello ha 22 anni. È stato disertore dopo l'8 settembre, dall'Accademia Militare, e si è unito alla banda Corvari. Adriano è riflessivo, riservato, l'esatto contrario di Silvio. Ha mille idee per mettere al bando i fascisti ed è stato lui ad organizzare numerose imprese belliche riuscite, come il duro colpo inflitto alle armate tedesche sul Monte Lavane nel luglio del 1944. I tedeschi avevano scoperto il nostro deposito di esplosivi. Adriano, pur di non lasciare tutto in mano nemica, organizza una squadra per far saltare il deposito. È così che saliamo io, Adriano, Antonio detto il Bello e Giovanni detto il Brutto. Saliamo fin sul rifugio. Il piano è attirare i tedeschi fin lì per farli saltare in aria insieme al capanno. Piazziamo velocemente detonatore e miccia. È tutto pronto. Ma non ho mica finito tutte cerine. Ma non me ne è restato nemmeno una. Allora, compagni, facciamo così. Ora io prendo una pomma a mano, gli tolgo la linguetta, gli tolgo la sicura, la butto nel capanno, o ci va o ci resta secca. Ma non abbiamo alternative. Non vogliamo accettare la sua mossa suicida. In mezzo alle imprecazioni, ecco il Bello che ferma improvvisamente Otello e gli dà un cerino. Un cerino che si era ritrovato chissà in quale tasca. Ma che culo! Tiriamo tutti un sospiro di sollievo. Adriano prende il cerino e accende la miccia. I tedeschi avanzano. Dobbiamo sbrigarci. I soldati circondano la capanna. Adriano aspetta. La miccia è accesa. Dovrebbe esplodere. Ma l'esplosivo non innesca. Ma guarda che culo che c'hanno questi crucchi! Ma non mi si è mica spenta la miccia! Ma va a cavaia di una boia! Un'esplosione spaventosa sembra frantumare l'intera montagna. La nuvola di fumo e polvere investe l'intera zona. Siamo tutti al suolo, coperti di terra e cenere. Dopo qualche minuto di tombale silenzio, cominciano i primi bisbigli. Sciocci, che botta! Morti e feriti. Un'altra battaglia persa per i nazisti, che non volevano andarsene. Persino Radio Londra dà la notizia della nostra azione. Irish, Irish, fino a centine! Parla Londra, trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice, è cessata la pioggia, la mia barba è bionda, la mucca non dà latte, Giacomone bacia Maometto, le scarpe mi stanno strette, il pappagallo è rosso, l'aquila vola, parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Un mese più tardi. È il 15 agosto 1944. Compare nelle nostre vite Franco Rossi. Franco, quando si è presentato alla nostra porta, ha da tempo una cattiva fama. Dicono che ha fatto saltare un treno tedesco, ma anche di aver approfittato dell'ospitalità dei contadini rubando nelle loro case. Per questo è stato cacciato dal gruppo dei partigiani, perdendo di fatto la fiducia di tutti. Rossi vuole parlare con Silvio. Adriano è sospettoso. Corbari è incredulo, ma lo lascia parlare. Ma Silvio, ciao, sono venuto perché volevo chiederti, ma non è che mi fate entrare nella vostra banda? Ma voi siete fortissimi, siete degli spaccaculi! Per me sarebbe un onore. Ma dai, ma no, Silvio, ma sono cambiata, ne sono più quella di una volta, sai, sono diventato bravo adesso, sono buonissima. Ma dai, Silvio, ma poi, Silvio, i compagni non sono mai troppi, c'è sempre bisogno di nuove forze, no? Ma dai, Silvio, fammi entrare, che ti costa? Uè, Otello, ciao, Otello, ehi, ma ce l'hai una sigaretta per me? Accetta, Silvio. Accetta di far entrare quel ragazzo in casa, gli offre da bere, ascolta la sua storia, la racconta bene, Franco. È bravo con le parole, Franco. Nonostante i nostri sguardi di diffidenza, tutti lo considerano solo un fannullone. E allora stai qui, Franco. Resta. Ci darai una mano almeno a fare i turni di guardia. Va bene, Franco, resta. Comportati bene. Silvio e gli altri questa sera scendono in paese a prendere munizioni e cibo. Tu resta qui, con Iris, con me, a fare il turno di guardia la notte. E io mi sveglio. Di soprassalto durante la notte, nessuno mi ha svegliata. Franco non mi ha svegliata. La casa è silente. Il vento soffia fuori. Mi alzo e cerco. Cerco invano Franco e il mitra. Il mitra, il mio mitra, il regalo di Silvio, quello con l'impugnatura arabesca e la canna decorata da incisioni. Nulla. Nella casa non v'è traccia. Sul tavolo di legno trovo un biglietto. State tranquilli, lo riporterò presto. Ma il biglietto non è un buon segno. Né per Franco, né per nessuno. Silvio e gli altri compagni tornano ed io racconto. Sono arrabbiata, infuriata. Ci siamo lasciati ingannare da un ragazzo. Silvio si leva, non c'è tempo da perdere, dobbiamo andare a cercarlo. E lo cercano. Per le campagne, per i boschi, chiedono di lui in paese, seguono lungo i fiumi. Di Franco nessuna traccia, inghiottito nel nulla. Da quel nulla. Da dove era comparso. Ed io resto sola. Resto sola nella casa di campagna. Non mi do pace. Ho perduto l'unica arma che avevo e devo assolutamente rimediarne un'altra. Ed eccolo, in un angolo sperduto della casa, un fucile, un vecchio Sten, impolverato e malconcio. Devo stare attenta. Non è sicuro questo fucile, ma lo farò andare bene lo stesso. Ma l'arma è vecchia, la sicura non funziona. E come lo metto in spalla? Quello spara. Ed è così che mi ferisco ad una gamba. Senza preavviso, senza intenzione. Il colpo è entrato nel muscolo, aprendo una ferita profonda e dolorosa. Provo con tutte le mie forze a medicarmi, ma la ferita fa male, il dolore lacera, quei momenti interminabili di presentimenti e di paura. Allo scoccare della mezzanotte, siamo di nuovo tutti dentro la casa. Dobbiamo andare via. Franco non è stato trovato. Restare lì significa correre un rischio troppo grande. Ma siamo tutti molto stanchi ed io ho una gamba dolorante. Siamo d'accordo a riprendere le forze. Ne abbiamo bisogno, compagne. Solo qualche ora di riposo. Domani all'alba si parte. Ed eccole, le prime luci dell'alba. Arrivano portando con sé la fatica del risveglio e l'imminente partenza. Ed io mi sveglio con il bagliore dei primi raggi di sole sulla faccia. Sento il contadino che ci ospita uscire improvvisamente di casa. Ha sentito dei rumori? E tu, Iris, li hai sentiti? Non lo so, me lo chiedo. La gamba fa male. Non ne sono sicura, ma qualcosa la sento in quel momento. Una stretta al petto che opprime. Il contadino rientra in casa, lancia l'allarme e tutti si svegliano. Siamo circondati, saranno almeno 2000 corpi scelti per catturarci, Silvio Corbari e la sua banda. Maledetto Franco, cosa ti hanno promesso? Franco, maledetto Franco, perché sei caduto in quel tranello? Perché ci hai tradito? Un gruppo di militari è entrato in casa. Un ufficiale fascista spalanca la porta della camera da letto ed io me lo ritrovo davanti e sono pronta, dolorante ma pronta, con lo Sten in mano. Quello Sten traditore che mi ha ferito la gamba. Ora quello Sten spara! E prende in pieno il volto dell'ufficiale fascista. Si scatena l'inferno. Mitragliatrici e mortai sventrano le mura della casa. Tutto si sbriciola davanti ai nostri occhi, ma noi rispondiamo colpo sul colpo. Non è finita, compagni, c'è una possibilità. Raggiungere la scarpata dietro la casa. Arriva fino ad una boscaglia e da lì possiamo fuggire coperti dalla vegetazione. Vieni, Iris, andiamo. Alzati, Iris, se ce la puoi fare. Stringi i denti e andiamo. Continua a gridare Silvio, mentre cerca di coprirmi sperando che io riesca a mettermi in fuga. Ma io non posso andare, non ce la faccio. Non voglio essere un peso e la morte certa per entrambi. Vattene Silvio, tu devi andare. Non è finita per te. Vattene! Lo vedi che nonostante tutti i tuoi tentativi si avvicinano. Silvio, amore mio, grazie per i momenti trascorsi insieme, il coraggio che mi hai trasmesso, la voglia di libertà che abbiamo condiviso e coltivato insieme. Vattene, Silvio, ora tu devi andare. Ed è con queste parole che mi punto il fucile alla testa e sparo. Thank you. Silvio si gira, di scatto. La vede sanguinante sul letto, stravolto, piange, è rabbioso, infuriato. Silvio stringe a sé l'amata, la compagna e l'amica. Addio Iris, grazie per i momenti passati insieme, il coraggio che mi hai trasmesso, la voglia di libertà che abbiamo condiviso e coltivato insieme. Addio, amore mio. E salta! Salta giù dalla scarpata, Silvio! È in preda ad una furiosa rabbia e terrore. Adriano lo segue, lanciandosi attraverso la pioggia di spari. Cosa c'è, Silvio? Qualcosa non va. Le caviglie sono andate. Non riesce a camminare, Silvio. Non sono ferite gravi, ma lui è sfinito. Sembra non avere più la voglia di andare avanti. Andiamo, Silvio, vai con Adriano. Non mollare, non darla vinta ai tuoi persecutori. Stracciali ancora una volta. Non dargli tregua. Ma Silvio non ce la fa. Scivola e cade, sbattendo la testa e fratturandosi il cranio. Ma secondo te, Adriano ti lascia da solo con i fascisti? Ma non ti preoccupare, Silvio, amico mio, resto con te, sai? Ma siamo amici o no? Ma senti che arrivano, senti! Gliel'abbiamo fatta sudare, no? 200 per catturarne due. Adriano stringe la mano di Silvio. Sa che per loro è finita. Ma ecco, dalle fila dei fascisti, comparire Franco Rossi. Franco Rossi mostra il mitra con la canna decorata da incisioni arabesche. Si rivolge a Corbari, ormai inerme, in una pozza di sangue. Ehi Silvia! Hai visto che te l'ho riportato fucile? Hai visto che sono diventato buono, eh? Ma quanto sono bravo! E tu, Otello? Ma perché non sei scappato? Eri a un passo dal bosco, eri salvo! Adriano, mo ce l'hai una sigaretta? Devi rispondergli, Adriano. Vuoi spiegare a questo giovane cos'è il valore della fiducia, dell'amicizia, della condivisione e della lotta, dello stare insieme, del non lasciarsi soli anche quando tutto sembra finito? Secondo te, lo capisce Franco perché sei rimasto accanto a Silvio anche quando potevi fuggire? Solo due parole riesce a dire Adriano. Ma vaffanculo, va! Spreca parole, Adriano, davanti a Franco e al fucile con l'impugnatura arabesca e la canna decorata. Per loro, lo sanno, è finita. È così che caricano Adriano, Silvio e il corpo di Iris sul camion e li trasportano nella piazza del paese di Castrocaro. La pena per i partigiani, si sa, è l'impiccagione. Silvio Corbari viene impiccato senza aver ripreso conoscenza. Sale sul patibolo Adriano, accanto all'amico, accanto al compagno di lotta e di vita. Adriano si mette il cappio da solo. Tirano la corda, ma questa si spezza. Le sue ultime parole furono: «Siete marci!» Siete marci pure nella corda. In quell'afoso pomeriggio del 19 agosto 1944, tutta la banda Corbari, catturata e uccisa, viene portata a Forlì ed esposta in pubblica piazza. Uccisi per la seconda volta, appesi ad un lampione di piazza Saffi. Due carnefici scattarono una foto, come se fossero stati un trofeo di caccia. Non è la prima e non sarà l'ultima di quelle atroci foto che ci raccontano la crudeltà fascista e umana. In quella foto, Iris è ritratta mentre penzola da un lampione, scalza, le gambe scoperte, i lunghi capelli che nascondono l'oltraggio del cranio sfondato con il calcio dei fucili. Si notano a poca distanza due uomini in uniforme che la guardano e ridono. Sono loro, il dettaglio sceno di quell'immagine impietosa. Siamo sorelle e fratelli, figli di queste colline, ci fu chiesta la vita. Ne avevamo poco di più, ma la demmo lo stesso, perché voi poteste continuare a sperare in un mondo più umano. Non offriteci solo preghiere, ma la rabbia, una rabbia feroce contro chiunque voglia mettere di nuovo gli esseri umani contro esseri umani, perché la voce non si spezzi in un pianto, ma diventi forte e libera in un grido. Passano gli anni, nascono nuovi tiranni, ma nascono anche gli altri, uniti nel tempo e nello spazio verso un unico grande sogno, che la vita può essere vissuta con dignità, che l'altrui personalità non debba essere violata, che gli uomini e donne possano guardare negli occhi altri uomini e donne senza paura e senza vergogna. Solo verso questo grande orizzonte possiamo trovare un riscattante significato per avere lottato e sofferto qua giù, sotto le stelle. Con Laura Pece dei Teatri della Viscosa per lo spettacolo Scintille, la banda Corbari. Ben trovata. Ben trovati a tutti e a tutte, eccoci qui. Che cos'è questo lavoro? Intanto è nato un attimo prima dell'inizio della grande pandemia e quindi poi con un po' di difficoltà siamo riusciti a promuoverlo, però ci interessava a lavorare su un tema della resistenza e volevamo scegliere e trovare una storia che ci appassionasse, non tanto per esaltare o ripetere delle storie già sentite in ambito di resistenza, ma per cercare di indagare proprio sulla figura dell'eroe, che tanto veniva anche un po' decantata in questi ultimi anni. Soprattutto oggi ne abbiamo anche abusato della parola eroe e anche fin troppo, e secondo noi c'è stata anche un po' una manipolazione della parola eroe da un punto di vista proprio politico per coprire le nefandezze che sono state fatte negli anni. Per indagare la parola eroe abbiamo scelto questa storia che è stata tratta dal libro Ribelli di Pino Cacucci, che è la banda Corbari, e proprio perché parlava di una banda e quindi non solo di un singolo individuo, e questo anche per dare l'importanza all'unione delle persone e quindi non solo l'eroe singolo che si deve immolare per tutti quanti, ma proprio l'unione delle persone che insieme riescono a portare avanti dei discorsi politici, sociali, eccetera. Quindi questo è stato un po' l'incipit del discorso che ci ha portato a questo spettacolo. spettacolo. Come si sviluppa? Ci dai qualche elemento di trama? Innanzitutto noi volevamo creare uno spettacolo fruibile in ogni situazione, in ogni ambiente, in ogni contesto, sia radiofonico che dal vivo, che in spazi piccoli, in spazi grandi, e quindi abbiamo sviluppato questo spettacolo come un reading però diverso, cioè abbiamo inserito all'interno musica dal vivo e proiezioni fatte poi con disegni di Francesca Carella, faccia doc per lo spettacolo, e quindi poi un'interazione tra gli attori scena e le proiezioni. La trama è molto semplice, la banda Gorbari era una banda indipendente, quindi non faceva parte di nessuna organizzazione politica, nazionale o territoriale, erano semplicemente delle persone che a un certo punto hanno deciso di combattere il fascismo, quindi si sono riunite insieme e operavano tra le colline tosco-emiliane, quindi verso Forlì, Faenza e tutta quella parte dell'Appennino tosco-emiliano. Si sono uniti nel 43 e purtroppo poi l'epilogo della loro vicenda è tristemente narrato con la loro impiccagione al termine di una vicenda andata male per i partigiani, ecco, insomma di una battaglia persa. Di tutta questa vicenda su cosa vi siete voluti focalizzare? Sui rapporti umani. Tutta questa vicenda, secondo noi, come sempre, anche insomma negli spettacoli o come anche poetica proprio di elaborazione degli spettacoli, ci focalizziamo molto sui rapporti umani, che è l'urgenza che sentiamo di dover non solo indagare noi come persone, ma anche di promuovere attraverso di noi, attraverso gli altri. E quindi i legami che venivano e che erano stretti all'interno della banda e che portavano poi a dei risultati, e anche purtroppo a volte questi legami, questa fiducia, questa solidarietà che attraverso anche un incontro spiacevole che poi loro fanno viene anche tradita. Quindi il rapporto umano può essere bellissimo, però può anche comportare dei rischi. In qualche modo però anche questi rischi, anche se poi hanno un epilogo negativo, sono importanti e bisogna in qualche modo cercare di affrontarli. Ci dai tutti i riferimenti web? La serata non sarà solo il nostro spettacolo, all'inizio ci saranno tre brevi interventi che abbiamo chiamato dialoghi, proprio sulla resistenza sia come esperienza epica però anche come una retorica che viene diffusa, e abbiamo scelto questo tema tra epica e retorica proprio perché riteniamo che ogni volta accanto alla memoria ci debba essere sempre l'azione, quindi bisogna sempre non solo ricordare ma poi agire in base a quello che noi ricordiamo. Questa presentazione dello spettacolo, i tre brevi dialoghi, saranno in streaming dal vivo sulla nostra piattaforma, col nostro canale YouTube Teatri della Viscosa e anche sui canali Facebook Teatri della Viscosa. In collaborazione con noi per la realizzazione della serata, una giovanissima associazione nata proprio durante l'anno della pandemia, Corte Nomade Teatro del Lazzaretto, quindi sarà anche disponibile sui loro canali social e Facebook, e sarà visibile fino a lunedì sera, quindi per 48 ore successive sarà possibile trovare sia i dialoghi che lo spettacolo. Scintille, la banda Corbari, un saluto e un ringraziamento a Laura Pece dei Teatri della Viscosa. Un in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi e viva il lupo soprattutto, va, che è meglio. Dai, a presto. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con il regista Piero Cannizzaro per presentare la sua mostra fotografica Racconti d'Africa a Palazzo Merulana a Roma dal 28 aprile al 23 maggio 2021. Piero, ben trovato. Grazie e ben trovati a voi, Federico. Cos'è questa mostra? una mostra di fotografie. Mostra di fotografie che ho fatto quando sono stato nel 2019, ero stato in Africa tra Senegal, Costa d'Avorio e Guinea per girare un documentario sul tema dell'immigrazione. Ne avevamo parlato anche con te a suo tempo, avevamo fatto l'anteprima al cinema Farnese, poi il film è stato anche a Parigi e adesso andrà anche a Londra e ritornerà anche a Roma. Durante quel periodo, mentre io stavo girando, avevo dei momenti di pausa e quindi io ho sempre avuto la passione della fotografia, tanto è vero che nel catalogo che è legato alla mostra lo dedico a mio papà, perché mio papà, mi ricordo, lui fotografava sempre e mi aveva regalato questa Kodak a soffietto, è da lì che ho iniziato il mio rapporto con l'immagine. Io ho sempre fotografato e che continuo a fotografare, però poi dopo mi sono avvicinato all'immagine, alla pellicola, insomma tutto il percorso da regista e da documentarista. E in quel periodo stavo facendo il documentario sull'immigrazione, un documentario diciamo duro, no? Per la maggior parte, in cui si sentono storie tra l'altro molto attuali, tutto quello che succede, purtroppo il Covid copre molte notizie, invece sappiamo che in questi giorni ci sono grossi problemi del traffico, delle persone annegate. Ecco, io sono andato a trovare nel documentario le persone che partono, persone che non sono tra l'altro, come diceva qualche recensione, gli ultimi degli ultimi, cioè qualcuno che non è neanche riuscito ad arrivare in Europa, nel senso che è arrivato o perché appunto era sulla barca e non è affogato ma è riuscito a ritornare, qualcun altro che era nel deserto si è spaventato, non aveva più soldi e è tornato. Insomma, io sono andato a vedere, ripeto, Senegal, Costa d'Avorio e Guinea, dove nasceva tutto, come diceva Henry De Luca, che mi aveva mandato un messaggino quando ero là, sai dove parte tutto. Allora, io mentre ero là vedevo appunto in villaggi, in posti dove ero, anche delle cose molto belle dell'Africa, soprattutto volti, soprattutto la gente industriosa che si lavora, perché noi pensiamo che tutto sia solo immigrazione, c'è molta gente invece che rimane là, la gente che cerca di immigrare è circa il 5%, tra l'altro è compreso anche l'immigrazione interna, quindi fenomeno molto complesso, ma c'è gente che invece rimane là e cerca di industriarsi, e là c'è anche molta bellezza. E quindi io, forse anche per risollevarmi lo spirito dalle storie molto dure a volte che sentivo, che fotografavo certe cose che mi colpivano, legate al lavoro, legato alle giornate quotidiane, insomma, generalmente sulle persone più che sui paesaggi, c'è qualche cosa, ma soprattutto sulla joie de vivre, mi viene da dire. Ecco, quindi la mostra è il lato positivo del film, potrei dire così, quindi si vedono ovviamente molti volti, ma anche persone che lavorano, per esempio nel catalogo, che abbiamo l'introduzione di Dacia Maraini, per esempio lei è molto colpita dal rapporto col corpo, no? La partecipazione del corpo di queste persone, perché vedi anche quello che danza, vedi quello che sta aggiustando una radio in mezzo alla polvere. Nel catalogo della mostra c'è anche un intervento di Diego Mormorio, studioso della fotografia, insomma insegna proprio il rapporto tra la fotografia e la filosofia, quindi c'è un suo intervento, c'è un intervento di Giovanna Cocche, che è una sceneggiatrice con cui ho collaborato da tempo, e poi c'è anche un mio intervento e c'è anche quello del curatore, che è Glauco Dattini. E Palazzo Merulana sono contento perché è un ottimo spazio, uno spazio bello, proprio dalla caffetteria a un'altra mostra che puoi vedere, non solo la mia, insomma puoi passare un pomeriggio bello, insomma, e che in questo momento forse ce n'è bisogno, no? Quindi in questo momento di riapertura, la mostra è stata aperta già 3 giorni, poi subito hanno chiuso e adesso c'è una riapertura, insomma. Quante immagini, Piero? 41 immagini di vario formato, e c'è proprio un po' un percorso, perché è quello che si chiama Racconti d'Africa, nella sala quella grande al quarto piano, quindi con un'ottima luce, insomma è proprio una bella mostra. Facendo le foto, che impressioni avevi di fronte al mondo che ti si presentava davanti? Un'immagine positiva, perché l'Africa non è soltanto sofferenza. È chiaro che se vai a trovare le storie di quello che ha cercato di partire, che è stato via 2 anni, che l'hanno diventato la moglie davanti a lui e davanti ai figli, queste sono le storie del documentario. Però poi quando lasci queste storie e vai in giro nei mercati o anche nei villaggi, trovi anche momenti sereni, momenti in cui loro lavorano, lavano, e quindi insomma io volevo anche mostrare che c'era anche questo aspetto. Nessun aspetto leva quell'altro, però sono 2 facce della stessa medaglia, ecco. E quindi mi sembrava, e siccome io sono molto attento per natura così alla bellezza, non potevo non venire colpito da certi sguardi, dai loro colori, cose anche che magari sembra un po' retorico dire dell'Africa, però quando sei lì nel villaggio in Guinea, dove magari ti vedi una porta praticamente dipinta e mi sembra Mondrian, infatti quella nella, nella mostra. Ecco, trovi dei segnali che non, insomma, non li ho scoperti io, se teniamo conto che da Picasso in su o in giù si sono ispirati all'Africa. Venivo colpito, ma non ideologicamente, proprio emotivamente, anche da queste bellezze. Ecco. La mostra fotografica Racconti d'Africa a Roma, Palazzo Merulana, dal 28 aprile al 23 maggio 2021. Un saluto e un ringraziamento all'autore Piero Cannizzaro. Un in bocca al lupo. Grazie e a voi. Ecco, forse volevo aggiungere che è anche nei weekend, perché prima neanche nei weekend, lunedì e martedì escluso, da martedì alla domenica, dalle 12 alle 7 di sera. Con Raffaele Curi, direttore della Rhinoceros Gallery a Roma, per parlare della mostra che interseca due esposizioni sotto il profilo di Dante. Una fotografica, Ever After, di Claudia Rogge, e la sua, un'installazione multimediale, Dante in a Private Dream. Raffaele, ben trovato. Buongiorno. Cos'è questa galleria per chi non la conoscesse? La galleria fa parte del palazzo appunto Rhinoceros, che è stato costruito per la fondazione Alda Fendi dalla star francese Jean Nouvel, che voi tutti conoscete. È un architetto fra i più famosi del mondo, molto duro, usa materiali forti tipo il metallo, il ferro, eccetera, ed è un esperimento a Roma abbastanza affascinante, anche perché è in un posto archeologico di grandissima importanza, quasi attaccato all'Arco di Giano, vicinissimo alla Bocca della Verità, vicinissimo al posto sull'Anza del Tevere, dove secondo la leggenda nasce Roma e viene trovata la cesta con Romolo e Remo. In questo palazzo succedono tante cose, tra l'altro c'è una terrazza meravigliosa da dove si può vedere un panorama veramente unico, e nella galleria in questo momento ci sono appunto le fotografie di Claudia Rogge, che è una grandissima fotografa, direi quasi espressionista, interessantissima, con diverse fotografie appunto di personaggi nudi, tra cui il paradiso e l'inferno di Dante Alighieri. Tutto nasce da queste fotografie, perché a me viene in mente di fare due installazioni sempre in onore di Dante Alighieri nel 700° anno dalla morte. Una mia prima installazione si chiama Dante in un sogno privato, di Raffaele Curi. Io ho immaginato il canto 13°, quello di Pierre Delevingne, quello dei suicidi. I suicidi vengono condannati all'inferno e trasformati in arbusti essiccati. Io ho pensato un po' a questo e ho fatto un'idea moderna di quella selva pietrificata, e ho pensato alle nostre città radioattive con quel paesaggio appunto radioattivato e quindi essiccato, senza vita, con delle musiche del Kraftwerk, complesso di musica elettronica molto interessante, che interpretano appunto un loro successo, Radioactivity. Nel piano superiore invece ho immaginato il paradiso e mi sono ispirato all'ultimo canto del paradiso, il 13°, attraverso una visione, sempre una mia visione, con un quadro che mi ha ispirato particolarmente. Tra parentesi, io sono laureato in storia dell'arte, amo molto quel periodo, il gotico internazionale, e appunto mi sono ispirato a un quadro di Giovanni Di Paolo che illustra e miniaturizza la Divina Commedia in maniera veramente fantastica. C'è una sua opera con uno sfondo di lapislazzuli e un grandissimo sole. Io ho preso questo sole e lo ho trattato in tantissime maniere, con la scritta «L'amor che muove il sole e le altre stelle». Quindi un viaggio attraverso l'inferno e il paradiso in un palazzo. Ci accompagna eccezionalmente, e posso veramente dirlo, l'Accademia della Crusca, che come voi tutti sapete è un po' l'accademia forse fra le più importanti d'Italia, è quella che vigila il nostro italiano, è come se fosse il capo del vocabolario di italiano. Ogni giorno l'Accademia della Crusca presenta una parola delle tante terzine della Commedia di Dante e la spiega in tutti i sensi, storicamente, geograficamente, letteralmente, eccetera. Questo è un po' il succo. Mettiamoci poi che tutto questo succede vicino all'Arco di Giano, il palazzo è affascinante, eccetera. Devo dire, io ho cominciato col Giardino dei Finzi Contini di De Sica, ho fatto tantissimi spettacoli, mi sono occupato del Festival di Spoleto, però questa qui di Dante veramente è una cosa che ho amato tantissimo. Posso dire che non è venuta male, sarei contento se poteste andare a vederla. Ci lasci tutti i riferimenti?